è vero che il navigatore ormai la fa da padrona per l'orientamento, per spostarci, ma noi possiamo anche evitare di delegare tutto a questo strumento. Ad esempio, facciamo così: mentre siamo in viaggio, cerchiamo attentamente nell'ambiente tutti i punti di riferimento principali, come ad esempio i palazzi caratteristici, i monumenti, alberi particolari, fontane, eccetera, tutto ciò che può essere, diciamo, un punto di riferimento, un landmark sul territorio. Questo ci è utile per orientarci, ma immagino funga un po' da allenamento anche per sviluppare altre attività, altre abilità. Altre abilità, e sono anche molto importanti. Ad esempio, in questo modo noi che cosa sviluppiamo? Sviluppiamo l'attenzione selettiva, cioè quella di saper focalizzare la nostra attenzione su alcuni dettagli dell'ambiente, e anche la concentrazione. Queste due funzioni cognitive sono molto utili. Per cosa? Per potenziare ad esempio la memoria topografica, per potenziare le abilità di pianificazione del percorso che dobbiamo fare. Quindi ha dei risvolti molto interessanti. Adesso, professore, leggiamo, posiamo il nostro sguardo sulle pagine di un quotidiano. Sì, un ottimo esercizio che possiamo fare con la nostra vista mentale è il seguente: posiamo lo sguardo sulle pagine di un quotidiano e cerchiamo rapidamente, ad esempio, dove si trova la data del quotidiano. Sì. Poi possiamo cercare, sfogliando velocemente le scritte, se c'è la parola benessere. Oppure possiamo focalizzare la nostra attenzione sulle fotografie, ad esempio individuando quelle dove ci sono uomini con la cravatta, oppure dove è rappresentato un animale, eccetera. Tutto ciò che è un dettaglio nell'ambiente.